Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800, buongiorno, 800 24 00 24. Per parlare con l'elefante e con i suoi ospiti della di una delle più grandi avventure dentro la crisi economica e finanziaria internazionale, l'avventura dell'automobile e in particolare l'avventura della Fiat. Una roba che insomma veramente si presenta come una specie di intreccio fra guerre industriali, acquisizioni di imprese, si divorano, si mordono le une con le altre, creditori, grandi banche, sindacati, grandi interessi consolidati che sono messi in discussione, e soprattutto gli stati, il tesoro americano, il governo tedesco, in parte anche il governo italiano, la Commissione europea, intorno alla ristrutturazione del mercato dell'auto. Con la crisi scoppia, diciamo, la bolla politica. È in realtà un grande conflitto di potere su come si uscirà dalla crisi, chi saranno i giganti del futuro o perlomeno i nani seduti sulle spalle dei giganti del passato. È molto avventurosa, molto interessante anche per l'ascoltatore, per il lettore, insomma per il fruitore dell'informazione non specialista, perché è una storia di grandi manager che combattono, trattano tra Washington, Berlino, Torino, e trattano in un regime di concorrenza in cui i ministri dell'economia e delle finanze, appunto i segretari del tesoro, diventano un elemento, addirittura il presidente degli Stati Uniti, che il 30 marzo a sorpresa disse: a me piace la Fiat, fece uno spottone clamoroso, la Fiat è in buone condizioni, è più ecologica, fa macchine meno pretenziose delle nostre, quindi se Chrysler vuole i finanziamenti americani entro il 30 aprile bisogna che ci dia un piano industriale e un'alleanza con la Fiat. Pazzesco, una cosa incredibile fino a qualche tempo fa. Le ultime notizie sono che alle 15 ore italiane, le 9 ora americana, la General Motors annuncerà i suoi piani di ristrutturazione e di rilancio. Stiamo parlando delle grandi case di produzione automobilistica, tutte sull'orlo del fallimento, americane. E l'altra notizia, piuttosto greve, è che dopo la famosa intemerata del commissario all'industria, vicepresidente della Commissione europea di Bruxelles, Günther Verheugen, che aveva detto il 24 di aprile ma la Fiat si faccia da parte, che non c'ha una lira, non può assolutamente comprare la Opel, perché c'è un'offerta di Fiat per la Opel, che è una branca della General Motors europea, è la filiale europea della General Motors. Scandalo, guerre di comunicati, smentita del... oltre a questo adesso c'è Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, che è il ministro degli esteri tedesco, che dichiara al Financial Times Deutschland, l'edizione tedesca del Financial Times, la Magna, che è un altro gruppo industriale che vorrebbe la Opel, che ha fatto un'offerta in concorrenza con la Fiat, la Magna è un'opzione più seria della Fiat. Vedete, ci sono le elezioni fra qualche mese, fra 5 mesi a Berlino. E allora il socialdemocratico Verheugen, il socialdemocratico ministro degli esteri Steinmeier, ma anche Theodor zu Guttenberg della CSU, il democristiano, si fanno tutti la concorrenza per che cosa? Per ottenere il consenso dei cittadini, quindi per lisciare il pelo dei loro interessi. In una guerra commerciale infraeuropea e interatlantica, internazionale, guerra commerciale e industriale, che trova le sue radici proprio nella crisi, perché all'origine di tutto cosa c'è? Ne discuteremo tra poco con i nostri ospiti. Il fatto che la Fiat è sì un'industria automobilistica, come tutte le industrie automobilistiche, in crisi, forte crisi, c'ha 400 e più milioni di perdita secondo la prima trimestrale. Insomma, la Fiat è in crisi, ma è meno in crisi degli altri ed ha una posizione strategica nella mappa delle diverse ditte di costruzione di automobili, una posizione che le consente di essere capo in testa e di avere l'ambizione, pensate un po', di uscire dalla crisi come la Fiat come polo automobilistico, che con Chrysler da una parte e Opel dall'altra sarebbe un polo automobilistico da 6-7 milioni di vetture prodotte e si spera vendute l'anno, il che significa proprio quella dimensione di scala che, secondo il manager della Fiat, l'amministratore delegato Marchionne, che è il protagonista assoluto di questa fase, serve per resistere sui mercati. Bene, 800 24 00 24, gli ospiti dell'Elefante sono Federico Rampini, corrispondente dalla Cina per la Repubblica, osservatore della crisi e in genere dell'economia internazionale di rango, Andrea Malan, che sta seguendo la vicenda dell'automobile con grande competenza per il Sole 24 Ore, Nicola Porro, vice direttore del giornale. A Rampini farei la prima domanda, che poi estendo agli altri ospiti, e che è una domanda tutto sommato direi molto semplice. Il New York Times dice: ma siamo sicuri che uno si può comprare un sacco di industrie automobilistiche in giro per il mondo senza sborsare un euro? Perché fa questa domanda il New York Times? Perché la Fiat, Marchionne, ha ribadito: noi non tiriamo fuori un solo euro. Le condizioni, cioè, di un accordo industriale con Chrysler sono condizioni per cui la Fiat dice: tu sei più in crisi di me, non hai prospettiva, sei alla vigilia del fallimento del Chapter 11, io posso darti una prospettiva se il governo americano ti aiuta, se le banche creditrici ti danno una mano, se i sindacati accettano certi termini di ristrutturazione del rapporto di lavoro fra i dipendenti della Chrysler e la Chrysler, tu in alleanza con me hai un futuro e possiamo insieme, magari estendendoci alla Opel, alla branca europea della General Motors, creare un colosso dell'automobile che possa essere veramente competitivo nei mercati di domani, per una serie di ragioni, perché io Fiat ho delle potenzialità tecnologiche, un know-how, una capacità di fare diversa dalla tua, e noi siamo complementari, ci possiamo integrare. Però senza una lira, senza un euro, senza nessun tipo di investimento finanziario in questo momento, il New York Times dice: siamo sicuri che un'operazione del genere si possa gratuitamente fare e costruire? Perché è quello che concretamente oggi in trattativa a Washington, dove Marchionne praticamente ormai risiede fisso come negoziatore italiano. Rampini, secondo lei lo scetticismo del New York Times è legittimato o no? Lo scetticismo è perfettamente possibile. Tutte e due le posizioni in realtà sono legittime. La posizione italiana, la posizione della Fiat, di Marchionne, si giustifica con il fatto che le tecnologie valgono capitali, quindi c'è ed è perfettamente possibile trattare dell'apporto che la Bisognerebbe provare però i telefoni prima, ragazze, perché se no provateli, perché se no non funzionano. Rampini, riusciamo a rimettere in piedi il collegamento? Ma noi lo sentiamo molto male. Riprovate in regia. Intanto io chiedo a Andrea Malan: la dichiarazione di Steinmeier di questa mattina al Financial Times Deutschland, Magna è un'opzione più seria della Fiat, non è, come peraltro era, ancora più grave perché si tratta della Commissione di Bruxelles che dovrebbe essere imparziale, la dichiarazione di Verheugen, una dura interferenza di Stato in una competizione industriale così delicata? Beh, diciamo che la posizione di Steinmeier riflette uno dei punti chiave di questa crisi, e cioè il governo tedesco, lo ricordiamo, l'avete ricordato voi, è a pochi mesi da una scadenza elettorale, questo è il primo punto. Il secondo punto è che comunque sarà Berlino a dover finanziare, se non tutta, almeno buona parte della ristrutturazione di Opel. Questo, come è successo e sta succedendo negli Stati Uniti per l'amministrazione Obama, significa che i governi hanno e vogliono avere voce in capitolo su come verranno ristrutturate le aziende e su quali saranno i partner. Se Berlino dovrà mettere 2, 3, 4 miliardi di euro, è inevitabile che voglia avere voce in capitolo. Poi, come avete ricordato prima, appunto ci sono le elezioni, c'è un gioco delle parti politico per cui Steinmeier, socialdemocratico, tende a in qualche modo vedere con maggiore sospetto un'alleanza con Fiat, che è, ricordiamo, un'azienda molto simile per prodotti e per gamma di prodotto alla Opel, e quindi con la quale un'alleanza per Opel significherebbe probabilmente tagli, se non agli stabilimenti, ai prodotti, ai piani di sviluppo, eccetera, piuttosto che con la Magna che avete citato, che è un produttore di componenti, che quindi con Opel avrebbe nessuna sovrapposizione e potrebbe semplicemente espandersi con probabilmente minori tagli. Questo, diciamo, è un gioco anche poi della trattativa, cioè è chiaro che se io ho due candidati tendo a favorirne uno per far sì che per esempio l'altro mi faccia poi un'offerta migliore. Certo. Infatti c'è Edoardo da Rovigo che ci ricorda, diciamo, un principio che conosciamo bene di intervento dei governi nelle vicende industriali. Edoardo. Sì, buongiorno direttore. Buongiorno, prego. Niente, volevo fare una brevissima osservazione. Sì. La posizione dei governi tedeschi, dei politici tedeschi, mi sembra legittima, se ricordiamo anche la posizione che ha avuto il governo Berlusconi prima ancora delle elezioni nei confronti della vicenda all'Italia. Certo, tutto noi abbiamo la clamorosa posizione di Berlusconi durante addirittura la campagna elettorale sull'Italia, e quindi abbiamo un esempio classico, diciamo, di un... Io non so dove ci... Rampini, sì. È stato ripristinato il collegamento? Rampini, io poi... mi sento. Ah, benissimo, adesso sentiamo molto bene. Allora, il problema è, noi avevamo cominciato col dire è credibile fare tutta questa grande operazione che porta alla formazione di un colosso strategico dell'industria dell'automobile senza sborsare un euro? Ma la posizione di Marchionne ha una sua logica, perché le tecnologie valgono capitali, e se le tecnologie della Fiat, come sembra, consentono alla Chrysler di fare di guadagnare 2-3 anni almeno di investimenti in motori meno energivori, meno inquinanti, per avere una gamma di modelli di autovetture più piccole e più leggere, che sono quelle che adesso la Chrysler deve prepararsi a produrre, se il matrimonio con la Fiat fa guadagnare 2 anni, si può anche calcolare in modo abbastanza preciso quanti capitali valgono questi, certo, questi contributi tecnologici della Fiat. Detto questo, è comprensibile anche la posizione che citavate prima del New York Times, cioè il timore che un socio come la Fiat, che entra senza metterci nessun capitale cash, sia un socio che... non si sente abbastanza implicato, coinvolto e partecipe del futuro della Chrysler, e quindi potrebbe sfilarsi anche molto rapidamente se le cose vanno male. In fondo gli americani si ricordano anche un po' la storia del matrimonio Fiat-General Motors, che si è concluso con un formidabile affare finanziario per la Fiat, certo, quando ha deciso di chiudere. Sì, e fu proprio Marchionne il protagonista di un clamoroso, sì, e ormai, diciamo, celebre negoziato che portò via 2 miliardi di dollari, se non ricordo male, o qualcosa di più, alla General Motors in cambio, diciamo, della rinuncia a entrare nella Fiat, che allora era la più in crisi di tutti. E questa è la seconda domanda che volevo fare a Nicola Porro. Allora, l'autorità di Marchionne deriva, abbiamo detto, dal fatto che la Fiat non è che non perda, però ha aumentato un po' le sue quote di mercato in Europa e in Italia, ha lanciato dei modelli di successo, tra cui la famosa ormai 500, che dalla metà del 2007... adesso la si comincia a vedere seriamente nelle nostre strade, nelle nostre città, e vabbè. E poi, insomma, sì, la trimestrale è negativa, eccetera, però rispetto al resto è piazzata meglio per tante ragioni, poi non produce appunto i colossi energivori, eccetera, insomma è più agile, più duttile, potrebbe stare meglio sul mercato se la crisi e la ristrutturazione andassero avanti in una direzione positiva. Però la domanda fondamentale è questa: come mai Marchionne è riuscito a ristrutturare senza pesanti costi sociali la Fiat in Italia fino adesso? Adesso si parla per Pomigliano e per Termini Imerese di 2 stabilimenti in crisi che potrebbero, in una ristrutturazione generale nella crisi, andare perduti, essere chiusi. Però Marchionne è riuscito a fare una roba d'accordo con i sindacati, con l'opposizione, con il governo, con lo Stato. No, e si è fatto la fama di manager socialdemocratico e riformista, mentre in America, quando c'è una crisi industriale, nasce subito un vero dramma sociale. Cioè, adesso le cose di cui stanno discutendo lì per l'accordo Chrysler-Fiat sono la ristrutturazione della copertura sanitaria per i pensionati, i sindacati, la riduzione dei salari, il Canadian Auto Workers, il sindacato canadese dei lavoratori dell'auto, ha concordato la riduzione dei salari e molte altre, diciamo, e molti altri elementi di sacrificio sociale. E c'è sempre la prospettiva concreta del fallimento, della chiusura totale degli stabilimenti, della abrogazione di intere città industriali. Come mai da noi è tutto così morbido e lì è tutto così tragico? Da noi è così morbido fino a un certo punto, perché poi Marchionne ha dimostrato di azzerare i vertici di comando della Fiat come un bulldozer. È entrato in Fiat così come oggi entrerà in Chrysler se dovesse chiudersi l'operazione, nel momento peggiore per la Fiat, e quindi con la forza maggiore di poter tagliare i vertici che avevano gestito l'azienda negli ultimi anni. Lei si immagini che Rick Wagoner, l'uomo che disse nel 2001 non ci sarà un mondo più senza SUV, e sostanzialmente è durato nonostante quella put di 1 miliardo che ha dovuto pagare la Fiat e nonostante gli errori manageriali compiuti. Cioè, voglio dirle in parole molto semplici che la vera rivoluzione di Marchionne è stata una rivoluzione manageriale in un vecchio elefante che è nato alla fine dell'Ottocento come cultura, come tutte queste grandi case automobilistiche. Questa è stata la grande rivoluzione, gestire in maniera manageriale con criteri completamente nuovi e linee di comando completamente nuove questi vecchi elefantoni, senza nessuna offesa ovviamente, delle vecchie quindi case. Lei dice anche Marchionne ha fatto scorrere sangue, insomma. Ha fatto scorrere, primo punto. Tra secondo i quadri punto, dirigenti, rinnovando il management della Fiat. Secondo punto fondamentale, le Big Three hanno un costo del lavoro di $70-75 all'ora. Lei si rende conto che l'accordo di questa notte con gli americani e della notte precedente di sabato con i canadesi è valso una cosa come $16 all'ora di risparmio per dipendente? Cioè, sono delle cifre per cui ci si rende conto quanto grasso c'era in quella gestione incredibile della forza del lavoro sindacalizzata. Che è assurdo, perché poi secondo le regole della globalizzazione a Detroit si lavora a quelle condizioni, mentre nel sud degli Stati Uniti i giapponesi è pazzesco. A $30, cioè parliamo, è vero che ci sono degli appesantimenti sociali che arrivano dal fatto che sono aziende vecchie, però il dato è che quelle erano aziende che erano veramente gestite fuori da qualsiasi logica di mercato. Sì, prego, porro. Soltanto una piccola cosa sulla domanda del New York Times, che è una domanda legittima. Il problema, ed è la forza di Marchionne anche questa oggi, sulla operazione Chrysler, ho capito, ma c'è qualche alternativa per il fallimento totale di questa azienda? La forza di Marchionne oggi è proprio questa, che in realtà Chrysler è sostanzialmente saltata come era saltata l'Italia e quindi non vi è un'alternativa. I sindacati hanno rinunciato, le ripeto, 400... Quindi secondo lei si chiuderà l'accordo? Ma io con l'accordo, perché c'è il termine del 30 aprile, siamo a 3 giorni. Guardi, ormai. L'accordo è in mano ai signori di Goldman Sachs questa notte e quindi al Ministero del Tesoro, che è qualche buona... Come Goldman Sachs? Ma c'è JP Morgan e JP Morgan, Goldman Sachs hanno 4... Citigroup. Sostanzialmente sono i signori delle grandi banche americane che sono state salvate dal Tesoro americano. Adesso io non voglio essere troppo italiano e dietrologo, ma secondo lei salta un'operazione con Fiat da parte di coloro che fino a questo momento sono state salvate dal governo americano? Spieghiamo bene per gli ascoltatori, il problema è la ristrutturazione del debito di queste grandi banche americane che dicono vabbè, noi però un po' di soldi li vogliamo e vogliamo una partecipazione nel capitale della nuova Chrysler, se volete che riduciamo il debito. E però naturalmente impongono condizioni troppo onerose perché il piano riesca. Allora si dice, il governo americano, siccome a sua volta ha salvato queste banche e le ha riempite di liquidità, nel momento del bisogno ha l'autorità. È questo che lei dice, Porro? Beh, no? Dico di sì, c'è l'autorità che le deriva anche dal fatto che queste banche sono partecipate sostanzialmente dal Tesoro americano. Certo. E addirittura le dirò di più, il Tesoro americano non vuole riavere indietro i soldi che ha imprestato a queste banche, perché c'è tutta una polemica che è inutile aprire ora. Sì. Io non dico che si chiuda sicuramente, dico che il Tesoro americano ha l'autorità per imporsi. Esatto. 800 24 00 24, il drammone dell'automobile. Andrea da Padova ha una domanda per Federico Rampini sul modello proposto da Fiat. Prego, Andrea. Sì, buongiorno Ferrara, buongiorno ai tuoi ospiti. La domanda per Rampini è questa, proprio in virtù dei bei libri che ho potuto leggere, dello sguardo così interessante che ha sull'India e la Cina. Questo modello di lancio della polpetta avvelenata dei debiti delle grandi società tra Europa e Stati Uniti e i grandi interventi statali di tutti i paesi occidentali in queste realtà aziendali che hanno anche le loro esigenze evidentemente di salvaguardia dell'occupazione e quant'altro. Come si pongono questi movimenti nell'ambito del capitalismo dell'India, soprattutto nel settore dell'auto e dei grandi paesi che per ora noi evidentemente non consideriamo ancora come degli attori principali? Cioè è veramente utile che come dire, il governo americano intervenga per salvare Chrysler assorbita da Fiat e poi far confrontare questa nuova creatura con questi altri mercati emergenti? È qualcosa che deve essere considerato, che può spaventarci? Ecco, questa è la domanda, grazie. Ma risponderei innanzitutto che questi interventi pubblici in aiuto all'industria automobilistica in difficoltà negli Stati Uniti, in parte anche in Europa, per certi versi rappresentano quasi una rivincita del modello di capitalismo asiatico, perché in India, ma ancora di più in Cina, in parte anche in Giappone, non c'è mai stato un capitalismo di mercato così liberista come negli Stati Uniti. La Cina poi è un caso classico in cui addirittura tutta l'industria automobilistica è partecipata dal capitale pubblico, le case straniere, dalle americane alle europee alle giapponesi, possono entrare in Cina solo alleandosi in joint venture con dei gruppi cinesi che sono tutti a proprietà statale. Quindi l'Asia, come dire, si sente vendicata da questa crisi non avendo mai sposato un modello iperliberista. Ed è la domanda dell'ascoltatore è anche legittima, è un grosso interrogativo per il futuro. Effettivamente è possibile che in questo momento i governi occidentali, quello americano prima di tutto, ma anche alcuni governi europei, stiano spendendo risorse importanti per difendere delle case automobilistiche che tra 10 anni saranno comunque soccombenti di fronte all'avanzata cinese. Mm-hmm. Certo, indiana. È un bel interrogativo. In più c'è quello più tecnico, la sovrapposizione dei prodotti, che girerei ad Andrea Malan e che presenta Francesco da Roma. Francesco. Buongiorno Ferrara. Buongiorno. Io proprio questo volevo chiedere, ossia, al di là dei massimi sistemi dei quali si è discusso, questi tre grandi gruppi industriali, Fiat, Chrysler e Opel, sì, hanno delle linee di produzione in molti casi perfettamente sovrapponibili, tanto più, e con questo concludo la domanda, che la Ford Motor Company, abbiamo sentito la sua performance di borsa prima, sta scegliendo una strada del tutto opposta, cioè quella dello sfoltimento e del ritorno all'essenzialità dei prodotti offerti. Si è tra l'altro anche liberata di molti marchi che aveva. Grazie. E lei osservava anche nella scheda che per esempio la Punto e la Opel Corsa sono assolutamente identiche. Lo dico, ma in futuro alla fine si potranno. E quindi c'è la sovrapposizione dei prodotti. E quindi alcuni di questi prodotti e le relative linee di montaggio. Sentiamo cosa ne pensa Malan, che queste cose le conosce in modo competente. Malan. Allora, distinguiamo le due casi. Con Fiat Chrysler non c'è praticamente alcuna sovrapposizione e, come avete detto forse già voi prima, l'idea di Fiat è appunto quella di trasferire le sue piattaforme di auto piccole negli Stati Uniti, in parte con marchi Chrysler, in parte con i suoi marchi. Ma là possono funzionare le auto piccole negli Stati Uniti? Le strade, la 500 è bellissima, ma negli Stati Uniti mi sembra la macchina di Topolino. Allora, il discorso è molto semplice. L'anno scorso con la benzina a $4 al gallone, che per loro è tantissimo, certo, c'è stato un boom delle auto piccole. Quest'anno, paradossalmente, alcune auto piccole, ne cito un paio, la Toyota Yaris o la Ford Focus, che sono tra le poche che si vendono sia qua che là, quest'anno hanno avuto un crollo ancora superiore a quello di certi SUV. Questo significa che l'americano, se la benzina gli costa poco, ama l'auto grossa e continua a comprare l'auto grossa. Quindi per Obama non sarà facile imporre il modello dell'auto ecologica. Quindi questo è sicuramente, un problema. C'è anche da dire appunto che auto di nicchia come la Fiat 500, ma anche come la Mini prodotta dalla BMW, possono avere un potenziale per il loro aspetto, diciamo, un po' più di moda. La Mini ha avuto molto successo negli Stati Uniti, quindi esce un po' dalle logiche semplicemente di prodotto. Per venire invece al caso Opel, è completamente diverso, perché effettivamente il problema nel caso di un'alleanza Fiat-Opel è di una totale sovrapposizione. Abbiamo citato il caso di Punto e Corsa, ce ne possono essere altre, cioè praticamente le due case sono forti nelle auto piccole e medie e sono molto deboli in quelle grandi. Allora, il vantaggio quale sarebbe da un'alleanza? Sarebbe di fare replicare altre case come la Punto e la Corsa, cioè prendere, che ne so, la Panda e farci un'auto Opel, fatta un po' diversa ma con la stessa base. Questo consente di risparmiare sui costi di progettazione, di risparmiare sui costi di molte parti che il cliente non vede e di presentare comunque due auto diverse. La Fiat, tra l'altro, ha seguito questa strategia negli ultimi anni anche con altre case. Sappiamo per esempio che sulla, diciamo, piattaforma della Fiat 500 e della Panda c'è anche la nuova Ford Ka, che è prodotta nello stesso stabilimento Fiat in Polonia, e questo ha permesso a Fiat di fare dei risparmi. Quindi è una strategia sicuramente vincente, che permette di ottenere una parte di risparmi. Il difficile è gestirla sul mercato dal punto di vista commerciale, quindi non fare offerte troppo simili e gestire i marchi in modo da diversificarli in un mercato come quello europeo, dove ci sono 20, 30, 40 costruttori. Quindi questa è forse la parte più complessa, oltre a quella che avete citato prima del discorso degli stabilimenti. Leggevo stamattina che Der Spiegel scrive che Fiat avrebbe assicurato alle autorità tedesche che non chiuderà stabilimenti Opel. Sì, sì. Questo ovviamente priva della possibilità di ottenere delle efficienze, ma sappiamo anche che Marchionne, siccome non è un filantropo, è comunque un manager abbastanza astuto, sa che in Europa soprattutto non è accettabile, certo. Sì, ma anche per motivi sociali, tra l'altro. Comunque il voler imporre la chiusura dello stabilimento avrebbe anche dei costi molto elevati. Cioè anche se la faccenda è un pochino complicata, Malan, volevo sentire in questo il parere di Porro, nel senso che nel momento stesso in cui Marchionne dice non chiuderò gli stabilimenti della Opel, però dice ai suoi azionisti forse mi tocca chiudere Termini Imerese e Pomigliano. Certo, in Italia si trova nella imbarazzante condizione di produrre, non so, 650.000 auto come è avvenuto quest'anno, l'anno scorso. È la metà di quello che potrebbe. E soprattutto ne fa 400.000 in Polonia. Termini Imerese poi vuol dire 1.500 dipendenti, voglio dire ognuno di loro ha una famiglia, una storia, non voglio assolutamente sembrare più... Pomigliano addirittura 5.300. Sì, insomma, stiamo parlando... No, appunto dico no, però i 1.500 dicevo che erano un elemento che nella crisi poteva, dal punto di vista cinico di un, come posso dire, di un manager, potevano essere assorbiti. Comunque il tema fondamentale che ha Marchionne è il seguente: finché lo Stato continua a sovvenzionare anche con una lira, ma tutte le case automobilistiche, come è venuto con la rottamazione, gli è per lui molto difficile ovviamente fare delle operazioni di chiusura, ridimensionamento forte. C'è da dire che c'è il caso Pomigliano, in cui invece la Fiat ha investito in due mesi di chiusura con milioni di euro di riqualificazione. Riqualificazione personale, sì, non si sa. Che è una cosa un po' più unica che rara nel panorama delle case automobilistiche in una fabbrica, e non è riuscito a ottenere quei risultati. Quindi, secondo me, siccome è molto abile in questo Marchionne nelle trattative con i governi e addirittura con le regioni, perché non lui a trattare in Sicilia per l'aumento della logistica, cioè delle capacità di trasporto di prodotti, eccetera, e bene, secondo me Marchionne agita sempre questo spettro dei due suoi stabilimenti inefficienti per tenere un po' sulla corda il governo, per dire almeno fate come fa tutto il resto dell'Europa riguardo a rottamazione e attenzione nei confronti dell'industria automobilistica, perché lui partiva da un problema dal suo punto di vista, cioè di essere la più sana paradossalmente delle grandi case automobilistiche europee, e quindi quella sempre paradossalmente forse meno bisognosa degli aiuti da parte dello Stato. Senta la visione sconfortata, lei che in genere è ottimista, Porro, di Francesco da Imperia. Francesco. Buongiorno, dottor Ferrara. E la mia preoccupazione, come quella di, penso, di molti, sarebbe proprio quella di vedere un domani la Fiat in difficoltà, anche se questa operazione inorgoglisce sicuramente il nostro paese, per quanto riguarda proprio un'operazione di questi numeri, che io personalmente ho persino paura a pensarli, questi grandi numeri che ci sono, però investire sempre solo esclusivamente nell'auto mi sembra veramente una cosa assurda, visto e considerato che ormai il mercato è quasi intasato, che gli porti anche un ferro vecchio per poter avere rottamare la macchina, continuiamo a rottamare le macchine e a produrre continuamente macchine, ma magari diversificare la Fiat e la Chrysler in altri prodotti, in altri nell'energia, per l'energia pulita, eccetera, penso che potrebbe essere un'operazione forse più stabile da un punto di vista economico, però non so, Marchionne ha salvato suo e speriamo che questi numeri gli diano ragione. Ecco, un po' di scetticismo. C'era scetticismo anche sull'affare Opel, Porro. Qualcuno ha detto, ma sì, ma l'Opel è una classica deviazione, cioè passare dalla General Motors per l'obiettivo Chrysler, ma in realtà Marchionne sa che non può fare l'operazione integrale, quella che porterebbe il nuovo colosso automobilistico a 6 milioni di vetture annue. Ma io devo dire che su questo mi fido di quello che dice lui, perché non ho altri elementi per poter giudicare. Marchionne, però adesso noi ci stiamo molto affrettando per le battute politiche che lei riportava all'inizio della trasmissione sulla questione Opel. Ma Marchionne oggi c'è un solo problema: deve chiudere entro 4 giorni l'operazione americana. Poi tutto il resto sta più in America che nei consigli di amministrazione italiana. Dopo si potrà porre il problema Opel con tutte le questioni che ne vengono, e non c'è anche da tenere in considerazione anche il fatto che Opel era comunque una possibile via d'uscita, lo dissero i manager della Fiat, se non fosse andata in porto l'operazione Chrysler, che non è ancora chiusa. Però insomma, prima di pensare a Opel, pensiamo di fargli chiudere questa Chrysler. Secondo aspetto, ha ragione il signore dicendo che probabilmente il mercato delle auto è a rischio nel futuro, ed oggi viene un po' artificialmente tenuto a galla dagli aiuti mondiali nei confronti dell'auto. Ha ragione il signore quando dice che c'è questo rischio, tant'è che si produce il doppio di quello, c'è una capacità produttiva installata doppia rispetto alla richiesta. Le auto si sostituiscono ormai nei mondi occidentali e non si comprano come primo acquisto, quindi è vero quello che dice, però stia attento, perché quando la Fiat si azzardò a diversificare fece il maggior pasticcio della sua storia, rischiò veramente di morire quella Fiat che si occupava di energia e costruzioni e banche e assicurazioni. Quindi forse un po' questo mondo di aziende, di grandi corporation che fanno tutto senza una grande capacità di far bene qualcosa, non c'è più, insomma. Va bene. Bene, 800 24 00 24. Siccome stiamo facendo un discorso così, in certi momenti tecnico, in certi momenti politico, in certi momenti strategico sull'automobile, io vorrei sapere da Rampini questo. Dunque, io faccio un ragionamento elementare. La popolazione cresce mondiale. Cresce tendenzialmente, adesso poi la crisi infuria, come ha ricordato Draghi, in particolare sui paesi in via di sviluppo, però insomma cresce, dovrebbe crescere la capacità di consumo delle nuove economie asiatiche, per esempio c'è 1,5 miliardi di cinesi e gli indiani che devono comprarsi l'automobile, o no? Allora io dico, insomma, siccome non è che è stato inventato un nuovo mezzo per garantire un trasporto flessibile delle persone, delle famiglie, degli individui, eccetera. Per quanto naturalmente insomma contino i nuovi fenomeni di urbanizzazione, i trasporti collettivi di massa, per carità, il telelavoro, la rete, però insomma alla fine l'automobile, noi lo sappiamo, è una cosa che ha un valore abbastanza, è ancora abbastanza insostituibile per trasferirsi in modo appunto flessibile. Perché si dà per scontato che l'automobile è il passato? Perché non possiamo pensare che in realtà il mondo, se riprende a crescere e a consumare, e se il consumo si estende all'Africa, all'Asia, con gli stessi ritmi con cui si è esteso in Occidente, il consumo anche di automobili, perché non possiamo pensare che l'automobile abbia anche un futuro? Ha sicuramente ancora un futuro in questa parte del mondo, quella da dove vi parlo io, cioè da Pechino. Ecco. Non c'è dubbio, sono due modi di vedere l'automobile molto diversi. Nei paesi come gli Stati Uniti, dove ormai ci sono in media più di 2 autovetture per nucleo familiare, paesi come l'Europa, insomma tutti questi paesi ricchi e vecchi, di vecchia industrializzazione, che hanno ormai, come avete ricordato, un mercato che è quasi esclusivamente di sostituzione, cioè si compra la macchina nuova per sostituirne una vecchia. Ben diversa è la prospettiva in Cina e in India, che sono ancora i mercati di prima motorizzazione, come lo era l'Italia degli anni 50, ma con dimensioni demografiche che sono appunto 1,3 miliardi di cinesi, 1,1 miliardi di indiani. Non tutti possono permettersi l'automobile, però già all'inizio di quest'anno, con una velocità che nessuno aveva previsto, che è stata accelerata dalla crisi, la dimensione del mercato automobilistico cinese ha superato quella americana. Cioè ormai annualmente si vendono più automobili in Cina che negli Stati Uniti. E beh, appunto, questo quindi è il futuro visto da Pechino. Alessandro da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Senta, facciamo un volo Roma-Pechino. Sì, il mio punto di domanda era soltanto questo. In un periodo di grosse difficoltà economiche come questo periodo di crisi epocale, è vero che ci sono momenti di grossa difficoltà, ma ci sono anche momenti in cui è un'opportunità importante da prendere. Allora, io vedo che Marchionne e la Fiat sta sfruttando un'opportunità con General Motors, con Chrysler e anche con Opel. Lui potrebbe raggiungere la fatidica soglia dei 6 milioni di automobili, che è stato da voi ricordato, che è un po' il cosiddetto break even, no? il punto di pareggio da quel punto in poi si inizierebbe a guadagnare un momento di aziende. E lei ha fiducia che questo sia possibile? Sì. No, io però volevo chiedere un'altra cosa e mi domandavo questo. L'offerta riferita ad Opel, io mi chiedo, non è che noi come paese scontiamo un po' una difficoltà di, come sistema paese? Cioè, mi chiedo, al di là delle normali politiche che lei ricordava, non potrebbe essere che la Germania, insomma, si fidi poco della Fiat? Classica sfiducia negli italiani, via. Italiani. E di questo mi dispiace. Non lo so, Malan, secondo lei può essere che sia così? Ma secondo me, visti i risultati della Fiat fino a qualche anno fa, è estremamente probabile. È vero che la Fiat fino a qualche anno fa era in grande crisi, era estremamente indebitata, rischiava a sua volta il fallimento. Sì. Diciamo che Marchionne in questi anni è stato, come ogni manager che si rispetti, bravo e fortunato, nel senso che ha... Poi Marchionne è uno strano tipo di italiano, no? Perché è abruzzese, sì, però è canadese, però ha lavorato in Svizzera. Cioè è un manager globalizzato anche un po' nella sua biografia personale, nel suo stile. Assolutamente, questo è un punto di forza sicuramente nei suoi negoziati. Adesso. Però tornando un attimo al discorso Fiat, lui ha sfruttato molto bene quello che è un ciclo positivo che magari ci sarebbe stato comunque, lui lo ha forse rafforzato, sì, che ha riportato la Fiat dai minimi a una situazione di maggiore salute. Ha sfruttato anche il fatto, per rispondere all'ascoltatore che chiedeva una diversificazione, il fatto che Fiat non fa solo automobili, fa anche camion, trattori, macchine, movimento terra e così via, quindi è già in vantaggio, nel senso che è un po' più diversificata rispetto ad alcuni concorrenti. Certo rimangono i dubbi forse dei tedeschi rispetto a una storia passata che non è di estrema salute. Fiat è strutturalmente, certo, un gruppo più debole, quindi al di là forse del discorso italiano e del sistema paese, si guarda all'azienda e si guarda alla sua storia passata, quindi è troppo recente il miglioramento forse per convincere al 100% i tedeschi, ma secondo me nel caso dei tedeschi conta effettivamente molto anche quello che c'è stato tra, certo, Fiat e Opel 5 anni fa, cioè io, come sono io trovo molto interessante, grazie Malan, trovo molto interessante il fatto che tutto si svolga a Washington, cioè io cerco di immaginarmela la trattativa, il grande negoziato, le banche creditrici, il gruppo dirigente di Chrysler, ma anche per quello che riguarda la questione Opel Europa, il gruppo dirigente di General Motors, Marchionne in un buon albergo a Washington che deve star lì a trattare sulla quota azionaria che eventualmente la Fiat avrebbe in Chrysler, il concambio, che deve stare a trattare appunto su tutti gli aspetti anche sindacali, tutto però a Washington, tutto nella sede del potere. Io credo che non ci siano precedenti di una trattativa, di un negoziato globale con al centro il tesoro, Steve Rattner, il capo della task force di Obama per l'automobile, Larry Summers, il consigliere di Obama che parla alla TV della domenica e dice questo si può fare, questo non si può fare, il governo può garantire, però sfissa le date. Cioè siamo in una sorta di socialismo capitalistico multinazionale e Washington e la trattativa intorno all'automobile mi sembra un caso politico del mondo nuovo. Rampini e Porro, un parere su questo e poi dobbiamo chiudere, grazie. Io sono d'accordo, effettivamente non ci sono precedenti, o meglio ci sarebbe il precedente di Franklin Roosevelt nel New Deal, che era un governo fortemente interventista, però non aveva la crisi questa dimensione globale, gli attori coinvolti nel salvataggio dell'industria automobilistica americana non erano così globali. Certo. Aggiungo che questo rappresenta anche un grossissimo rischio per l'amministrazione Obama, cioè questo livello di politicizzazione, certo, del governo della crisi, certo, significa anche che domani, se le cose vanno male, tutti punteranno il dito verso di lui. Non c'è dubbio. Porro e poi chiudiamo. Le aggiungo Le aggiungo che oltre a Washington si è trattato nelle centrali sindacali, che per gli Stati Uniti è una cosa incredibile, ma lei si immagini Marchionne che va negli Stati Uniti, invece di andare a New York, vabbè, va a Washington, invece di trattare con i manager va a trattare con i sindacati, sia in Canada sia a Detroit, sì, sì, che è una cosa che in America, voglio dire, lei ha mai sentito un'azienda americana che prima di essere comprata passi attraverso la trattativa sindacale? Sembrava di stare a Fiumicino più che a Detroit. Va bene, grazie Porro, grazie molte a Rampini da Pechino, grazie a Andrea Malan, grazie a voi, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Peter Bescapè. Linea al giornale radio e poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Un bacio, a domani.